140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Cinema e musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Cinema Odeon, Milano. Fondi europei per coppie di fatto? Due amici si fingono gay. Bosca e Vaporidis in Outing, fidanzati per sbaglio. Stella nel cast, Massimo Ghini. E raccontavo che faceva, non dico ridere, ma insomma c'è sempre qualche cosa nella vita che io almeno continuo a vedere sotto un profilo divertente, ironico. Perché loro sono venuti, parlo di loro, dico di Roberto Cipullo e Matteo Vicino, che sono venuti a trovarmi a Napoli, perché io ero in scena con il mio amico, compagno di viaggio Cesare Bocci, facevamo il vizietto, no? La Cage of Fall, che è una cosa che mi ha divertito. Io, sai, quando ti dici, proprio mi sono divertito come un pazzo. E dico questo perché recitavo 2 ore e mezza vestito da donna. Mi arrivano con questo copione. E allora ho detto, questo è un anno che devo in qualche maniera, come dire, dedicare ad affrontare questo tipo di argomento. Lo dico perché poi ne sono invece in maniera molto seria, come dire, supporter. Io sono stato uno dei primi che ha fatto il Gay Pride a Roma. Detto questo, mi sono venuti a proporre questa cosa, e fin dall'inizio quello che avevo trovato interessante era, e che mi era piaciuto, era che il film fosse politicamente scorretto. Ho detto, finalmente. Ecco, io ho amato invece fin dall'inizio l'idea che fossimo provocatori al punto tale che in fondo la beffa che veniva operata, che viene operata nella storia, è quasi provocando sul discorso dell'omosessualità, ma in realtà per ottenere un risultato, proprio che si discuta. E questo sarebbe stato l'atelier? Bello, eh? Comico. Ah, comico. Io sono anni che mi sto battendo per far passare una legge che riconosca i diritti delle coppie di fatto. E poi arrivate voi due. Fingerete. Che cosa? Sono 20 anni che fingo di essere eterosessuale. Per un mese potete fingere anche voi, no? Mai. Oggi arrivare a parlare dell'omosessualità non è solo parlare, come dire, della battaglia che facciamo, come dicevo prima, per salvare il panda, che diventa, come dire, il rinchiudere o chiudere dentro una specie di corral, no? Di recinto, per poi poter... No, qui si tratta di fare una battaglia di civiltà. La battaglia di civiltà è fatta dagli esseri umani, e gli esseri umani qualche volta sono intelligenti e meravigliosi, e qualche volta sono pure stronzi. Però nel momento in cui accetto delle persone l'una e l'altra faccia, significa che le ho accettate e che fanno parte della vita. Questo film, cioè il mio personaggio, che è un omosessuale che non è dichiarato e che non ha fatto outing, che spinge a far fingere a 2 ragazzi di essere omosessuali per ottenere un risultato. Però la provocazione sta proprio perché dice, perché siamo costretti a doverci inventare tutto sto gioco delle parti? Facendo provocazione, essendo politicamente scorretti, viva Dio. Come avete cominciato ad interessarvi alla moda? A un certo punto, dunque, eravamo a San Francisco, Lorenzo. San Francisco. E vedo questa splendida modella con un paio di jeans orrendi. Mio Dio, la guardiamo entrambi questa modella e i jeans le stavano malissimo. Iffimo. Malissimo, aveva un cavallo basso. Bassissimo. Praticamente un pony. E la prima cosa che nota è questo favoloso culo. Cioè, nota appunto come il cavallo dei jeans le scende malissimo, no? E allora mi guarda e mi dice... E dico, oh mio Dio, potrei fare molto meglio e con minore sforzo. Politicamente scorretti in una commedia divertente nella quale però si parla anche di problema dell'occupazione giovanile, problema del sud, malaffare, giornalismo che cerca di scoprire il malaffare. Ci sono tante cose in questa commedia. Spesso e volentieri ci siamo trovati a discutere su quale tipo di percorso, scena per scena, doveva essere il migliore per mantenere, come dire, l'argomento, ma pensare che in qualche maniera bisogna far sorridere. Vecchie citazioni che venivano, non so, da Agge Scarpelli, che dicevano: si scrive una scena, si scrivono delle scene, si scrive un copione, poi ci si ritorna sopra per capire dov'è il punto dove possa esserci una risata, che non toglie nulla alla qualità dell'argomento, al plot, però bisogna ricordarsi anche questo nel momento in cui tu stai affrontando poi peraltro un film di commedia, che è una parola nobile, nobilissima. Parola nobilissima, importantissima nella storia del cinema italiano, ma l'epoca d'oro delle nostre commedie era un'epoca in cui la gente aveva voglia di ridere, ma speranza. Adesso forse c'è ancora voglia di ridere, ma di speranza. Ma io credo che da questo punto di vista ci troviamo nella fase forse più difficile del secolo, da questo punto di vista, per quanto ci riguarda. Io mi sento fortunato, io sono un baby boomer, no? Come vengo chiamato, al quale poi continuano a dare tutta una serie di colpi. Io non faccio altro che fare interviste: perché non avete fatto il 68, ve l'hanno fatto gli altri, e poi avete fatto quello. Cioè, poi alla fine pure noi siamo dei privilegiati, ma non si capisce bene di che cosa. Comunque, detto questo, ho vissuto e ho fatto parte, l'ho raccontato quando facevo Raccontami, appunto, che noi eravamo, questo l'ha detto Bertolucci, quelle generazioni di persone che andavano a letto sapendo e pensando che il giorno dopo si sarebbero svegliati nel futuro. C'era questo senso del futuro, del futuro. Oggi questo non c'è. Io sono un padre di famiglia con 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, quindi ho davanti a me esatto e con enorme difficoltà il senso del non futuro che rischiamo, o che la società, diciamo, non sta costruendo per i giovani. Io credo che oggi è il momento di provare a fare outing da questo punto di vista, cioè provare a tirare fuori il meglio, perché non abbiamo sbagliato tutto, ma il meglio lo possiamo tirare fuori per camminare insieme. Noi, per non far buttare via l'esperienza del passato e tentare insieme ai giovani a questo punto di costruire un futuro. La risposta immediata: oggi prenderci veramente insieme la responsabilità di questo paese. Non è un ragionamento da prete di campagna, anche se Papa Francesco mi sembra che stia lanciando segnali, però ho sempre creduto al fatto. Cito una frase peraltro che viene pure quella da un Papa che mi piacque molto, da Paolo VI, che diceva: finisce l'era dei maestri, comincia quella dei testimoni. Allora io credo che la forza sia la testimonianza. Non devo insegnare, dico solo, ecco, mi sono rimboccato le maniche, questa è la calce, questa è la cazzuola, tum! E metto lì, e poi tu mi porti il mattone. Ecco, così costruisco. E possiamo parlare un attimo in ufficio? Eh no, invece di parlare, qui dobbiamo chiarire una volta per tutte. Buongiorno. Salve. Vorrei lasciare il curriculum. Sì, ufficio personale, corridoio a destra, prima porta. Grazie. Tu e il tuo giornale di merda. Ma non urlare, che sei solo una rompicoglioni. Roberto, tu assumi solamente dei raccomandati che non sanno fare un cazzo. E lo sai perché? Perché sei un servo. Ah, carina, guarda che io non assumo nessuno, è chiaro? Che cosa c'è? Ma il futuro del cinema? Guarda, il futuro del cinema è legato pure questo a un outing. Adesso facciamo Alberto Sordi, non perdevo occasione per tirare fuori, ti ricordi? Detenuto in attesa di giudizio, siamo tutti detenuti. Cioè, usava sempre la reiterazione del titolo per sparlarne. Guarda, io sono anche un po' rompiscatole, sono molto amato e anche non molto amato nell'ambiente del cinema, perché assumendomi la responsabilità ho sempre detto quello che penso. Torno a ripetere, credo proprio che il futuro nostro sia quello di uscire, di fare outing, cioè di uscire fuori da un'ipocrisia. Io mi sento di far parte di una famiglia che mi ha accolto da più di 30 anni oramai, e mi sono sentito e voglio sentirmi, appartengo a questa famiglia e ho cercato di operare in tutte le direzioni, facendo film i più diversi, film che mi hanno portato ai grandi festival e film che mi hanno regalato la gioia di avere un pubblico il più diversificato possibile, che mi incontra e mi dice quanto mi ha fatto ridere, e altri che mi dicono quanto mi ha fatto piangere. Ecco, questa per me, allora dico, il futuro nostro è fatto di questo. Noi abbiamo delle grandi eccellenze, rivendico artisti giovani, meno giovani, eccellenze italiane in questo senso. Ognuno tiri fuori la propria eccellenza. Non c'è basta con le lavagnette dei buoni e dei cattivi. Il cinema, come quello francese, deve prendere questo indirizzo. I francesi producono tutto, grande intrattenimento, come i figli della Nouvelle Vague, come la grande produzione televisiva internazionale, e non stanno sempre lì a menarsela con il senso dell'appartenenza. Noi dovremmo fare questo stesso salto in avanti. Ognuno si muova nell'ambito che ritiene più opportuno. Non faccia la cosa per avere la strizzata d'occhio o di un salotto da una parte o quel quarto d'ora di celebrità apparendo ad un festival, quando invece magari ci sarebbero dei talenti potenziali per poter fare. Vengo, purtroppo sono viziato, ma io da ragazzino andavo al cinema e vedevo dai film di Alberto Sordi ai film di Pierpaolo Pasolini, Antonioni, per un pugno di dollari. Pensa che fortuna, Dario Argento che mi faceva, no, non dormire la notte, alla Grande Commedia, che pensa che uomo fortunato che ero, che menù vasto che avevo. E poi uno mi piaceva, l'altro meno, ma quello era un grande cinema e non c'aveva nemmeno un'assistenza, pensa, statale, perché era un cinema che si faceva con le cambiali. Oggi, visto che non c'è più una lira, forse torneranno le cambiali, le cambieremo in un'altra maniera. Io vorrei che l'eccellenza, torno a ripetere, sto parlando di tutti amici, colleghi, più o meno giovani, pieni di eccellenza, la tirino fuori senza ipocrisia. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Musica e cinema nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Sony Music, Milano. Ha vinto Sanremo, sarà all'Eurofestival Scala Le Hit. Marco Mengoni esce con l'album Pronto a Correre. Noi lo seguiamo, ma dove ci porta? Oddio, è difficile correre e portare dietro tutte queste persone, eh? Molto difficile. Ma non so, sicuramente io corro verso il palco adesso, perché adesso che abbiamo, che è uscito questo progetto, diciamo, sono veramente, cioè, in agitazione per il tour. Non vedo l'ora che inizi, perché comunque il palco è il mio habitat. Con te, oh, ero immobile. Grazie per avermi fatto male. Non lo dimenticherò. Grazie, io riparto solo. Pronto, vento, ricomincerò. Bisogna sempre partire da se stessi, perché tu sei pronto a correre per te. Ed è una cosa importante scoprire se stessi e ripartire da se stessi. Beh, sicuramente è come amare se stessi e amare gli altri. Cioè, se non riesci ad apprezzarti tu e a conoscerti tu prima di tutto, poi non sai fare il confronto con le altre persone. Quindi è un po', sì, corro per me stesso, ma corro con tantissime persone, no? E corro anche per gli altri. Tu sottolinei sempre che si tratta di un progetto, ed è importante questa cosa di un progetto che è nato forse anche sulla conclusione di un progetto passato. Quanto è stato importante che le persone abbiano creduto in te, anche nella tua stessa casa discografica? Non hai cambiato, ma è cambiato il progetto. Ma lo chiamo progetto perché ogni opera che poi inizia ha comunque un concetto dietro, e comunque viene estrapolata dalla vita che uno fa, no? Cioè, tutta la vita quotidiana e le cose che noi passiamo, le esperienze, vengono ovviamente catapultate sulla vita artistica e su quello che poi metterai nel lavoro che farai. Lo chiamo questo ancora di più progetto, perché è veramente cambiato un po' tutto, e ho un nuovo team di lavoro, quindi una nuova produzione, un nuovo management, e questo per me è stato fondamentale, è stato molto importante, perché comunque mi sono confrontato con altre realtà diverse dalla mia e sono cambiato molto, e da questo è il frutto di tutte queste esperienze, di tutte queste collaborazioni, diciamo, ha portato a questo disco. Ci sono spari in fondo al deserto, Alla fine del giorno mi trovo da solo, le mie lettere sono senza risposta. Allora dimmelo e lo saprò. Tu, nichilista di nessun sentimento, sono come il tuo cane che morde la polvere. 100.000 dei prossimi giorni li avevo tenuti per te. Se si aprisse il paradiso qui adesso, nemmeno lo vedrei. È segno anche del tuo valore, perché di solito questa industria discografica prende un artista, lo spolpa per un po', poi lo butta via. Ma io devo dire che per quanto riguarda la mia casa discografica, la Sony, io sono sempre stato diffidente, perché comunque all'inizio sono stato un po'... Ho ricevuto delle porte in faccia dalle case discografiche. L'unica era la Sony che non mi aveva sbattuto la porta. Devo dire che ero molto diffidente ancora, poi fino a pochissimo tempo fa. Io con questo disco devo solo ringraziarli, perché hanno veramente creduto in me, hanno raccimolato le risorse possibili e ci hanno fatto fare quello che volevamo, a me, al mio produttore e a tutte le persone che hanno collaborato con questo progetto. Quindi per questa volta purtroppo devo dire molte grazie alla mia casa discografica. Anche un sacco di persone, perché hai degli autori pazzeschi in questo album, oltre a Marco Mengoni come autore. Sì, ho delle collaborazioni che alcune non me le sognavo neanche nei miei migliori sogni, perché nomi come Fossati, come Cesare Cremonini, come la Nannini sono, diciamo, un po' gli intoccabili, no? Quindi quando ti senti, ricevi una chiamata e senti pronto, sono Ivano, vorrei mandare un pezzo, rimani un po' ok, va bene. E poi oltretutto, modificandolo, firmandolo insieme, rifacendo completamente l'arrangiamento, avevo un po' paura. Comunque veramente li stimo moltissimo artisticamente, queste persone, e umanamente sono 1200 e lodi. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Prima partirà il tour, però nel frattempo dovrei anche fare le valigie, perché c'è un appuntamento in Svezia, oddio, sud della Svezia, vicino a Copenaghen, vicino alla Danimarca, Malmo. Sì, credevo di andare in vacanza, invece no. No, Vai proprio a fare l'Euro Festival e, un po' di paura, perché comunque un rappresentante solo che rappresenti una nazione musicalmente parlando è difficile, cioè ti prendi una bella responsabilità. Io ce la metto tutta, perché sono un patriota e perché ovviamente sono nato in Italia e amo l'Italia, e portiamo l'essenziale, portiamo lo stesso pezzo con il quale abbiamo vinto a Sanremo, e lo portiamo interamente in italiano, senza adattamenti in lingue estere. Credo che era la cosa più giusta. Spero vada bene, io mi spero di divertirmi più che altro. Speri che magari poi qualche porta si apra anche al di là dell'Italia? È normale in questi casi? Ma noi ci stiamo settando. Quindi, chi lo sa? Ha detto che hai già fatto un giretto in Spagna, è vero? Un? Giretto in Spagna. In Spagna abbiamo fatto un giretto, sì. Ma è così, proprio, siamo passati a salutare, hola! E poi siamo tornati. Spero di farne molti altri di giretti. Spero di farli adesso un po' in Italia di giri, perché ne hanno bisogno le persone che poi hanno creduto in me. E io ho bisogno di loro. Ci rivediamo a Malmo, allora. Absolutely. A presto, grazie. Grazie a voi. Istituto Europeo di Design, Milano. uscirà in maggio con Like Someone in Love. Ospite di Film Factory Italia di Di Saronno e Chuck, il grande maestro iraniano Abbas Kiarostami. Come riesce a essere legato alle sue origini, ma ad essere anche un regista tanto internazionale, ad amare quindi il Giappone, l'Italia? Riesce a conservare la sua natura anche nel mondo? Ringrazio per questa domanda. Non è una domanda, ma è soprattutto è un elogio, e io ringrazio moltissimo. Ma in realtà io non voglio esportare la mia cultura e io non voglio vedere queste differenze. Io voglio che la cultura non sia il tratto principale, ma sia un tratto secondario della vita dell'essere umano. Ciò che è essenziale, ciò che è originale, ciò che è la realtà è l'essenza dell'uomo, che è unico, che è dappertutto. Perciò non cambia se io mi trovo in Iran o in Italia o in un altro paese. Per me ciò che conta è l'uomo e la sua realtà e la sua vita. Realizzato un film che noi vedremo in maggio, con un titolo che parte da una canzone americana, con un'idea che parte da una fotografia che non ha scattato. Il cinema e tutte le arti insieme? La geografia del cinema è una geografia molto molto ampia e molto differente rispetto alla geografia dei vari paesi, con i confini che ci sono tra i vari paesi. La geografia del cinema comprende tutto il mondo, perciò io credo a questa geografia, e per me l'uomo che voi vedrete in questo film potrebbe benissimo parlare in farsi, potrebbe essere un iraniano, e io spero che quando lo vedrete in italiano vi sembri veramente un italiano. Perché? Perché in realtà l'essenza è unica e il resto è tutto secondario. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.